Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Un romanzo che all'estero ci hanno invidiato molti e infatti se lo sono contesi in parecchi alla Fiera di Francoforte, che, giusto per spiegarlo ai non addetti ai lavori, è il luogo dove si svolgono molte delle trattative di compravendita dei diritti dei libri a livello internazionale. E infatti questo libro è stato venduto in più di 30 paesi del mondo ed è un libro italiano, italianissimo come il suo autore. Lui è Paolo Cognetti, il libro si intitola Le otto montagne, pubblicato da Einaudi. Questo è un romanzo, come definirlo, sicuramente di formazione, ed è un romanzo anche molto, molto intenso, molto intimo, anche se mantiene sempre una scrittura asciutta, pulita, che non cade insomma nel melodramma, del resto com'è il tuo stile. Il protagonista possiamo dire che è Pietro, lo vediamo fin da bambino, fin da quando ha 6 anni, che viene portato dai genitori in montagna. Ci parli un po' di Pietro, come te lo sei immaginato? Ah, non ho dovuto sforzarmi tanto per immaginarlo, perché è un po' il mio alter ego, è un personaggio che ho già usato in altri racconti, e quando c'è Pietro, insomma, sono io. Sono stato portato in montagna tutte le estati della mia infanzia, in Valle d'Aosta, e quello è il luogo un po' di un'educazione sia alla montagna che al maschile, perché Pietro in montagna ci va con il padre, un padre che in città vede pochissimo e che sta con lui, è un rapporto affettuoso con lui soltanto in questi pochi giorni di ferie in montagna. Quindi per quest'uomo portare sui sentieri suo figlio significa un po' insegnargli o cercare di passargli valori importanti per lui. Infatti si vede fin dall'inizio appunto che Pietro viene portato dai genitori in montagna, in particolar modo ai piedi del Monte Rosa, in questo paese che si chiama Grana, e lui va insomma dietro il padre e scala appunto queste montagne. Ma già da qui si capisce il rapporto che Pietro ha con il padre, perché in diversi punti tu dici che il padre sembra ascoltare poco Pietro. Ci sono delle scene dove il padre dice sì, tu vai avanti, cammina, cammina, cammina senza mai fermarti, e Pietro ha la sensazione che il padre non lo ascolti e non senta quali sono i suoi veri sentimenti, le sue vere emozioni, anche perché Pietro all'inizio soffre quasi di mal di montagna, quindi sì, il loro rapporto è piuttosto teso all'inizio. È un padre chiuso, non soltanto perché il più delle volte sta zitto, ma anche perché è talmente concentrato su di sé e nei suoi pensieri che non è in grado di vedere gli altri, di capire gli altri. In questo sono due personalità molto diverse. Perché Pietro invece è una persona molto sensibile, e intendo dire che sente come stanno gli altri, se ne accorge subito, soffre. È empatico, è molto empatico. Sì, forse questo ce l'ha più dalla madre, ecco, la madre è una figura sì, di persona che dedica un po' la sua vita a prendersi cura di quelli che è intorno. Infatti a questo proposito a un certo punto tu scrivi, raccontato in prima persona da Pietro: io pensai che mio padre era bravo a parlare, ma ascoltare non era proprio il suo forte. Né guardarmi, altrimenti avrebbe capito come stavo. Avevo mangiato a fatiche, avrei fatto meglio a digiunare, perché adesso la nausea mi tormentava. Anche il rapporto con la montagna è diverso. Infatti a un certo punto tu spieghi che Pietro, la madre e il padre hanno un amore e una visione diversa della montagna, cioè a ognuno la sua altitudine. Alla madre piace insomma quella un po' più bassa, con i boschi, la vegetazione, eccetera. A Pietro quella di mezzo, e al padre invece le cime rocciose, un paesaggio assolutamente quasi lunare. Questo modo di affrontare la montagna rispecchia anche le loro personalità. Sì, sono quote elettive. Pietro scopre un po' alla volta che ognuno ha la sua quota preferita, perché quel paesaggio gli assomiglia. Quindi la madre è una persona che si dedica molto alle relazioni, per lei quello che c'è di importante al mondo è questo. E quindi nel bosco ci sono alberi, animali, case, il bosco è un luogo vivo di relazioni. Il padre è uno scienziato, è un chimico, e lui vive nel mondo delle idee, vive nella sua testa. Allora lassù in alto tra le rocce e i ghiacci non c'è nulla, è il mondo dell'aria, è il mondo dove si sta da soli e si pensa e basta, e non c'è nessuno. Pietro è combattuto tra queste due quote. Quando è ragazzino gli sembra che la sua quota preferita sia una via di mezzo, quella quota in cui finisce il bosco, iniziano i pascoli estivi, è la quota a cui abito io, ho una baita più o meno a 2000 metri, che è quella quota lì. Sì, tanto l'hai detto tu, che è molto autobiografico, è una domanda che io non faccio mai agli scrittori, ma in questo caso l'hai dichiarato, quindi possiamo dirlo. Sì, sì. E quindi ecco, poi nella vita gli gli toccherà trovarla la sua quota giusta. È vero che anch'io ho sofferto di mal di montagna, un po' una beffa per me, perché vado in montagna fin da quando sono nato e appena salgo sopra i 3.500 metri sto male. Quindi da bambino venivo trascinato sul ghiacciaio stando malissimo. Sembrava quasi un amore non corrisposto per la montagna, no? Ma come? Io voglio venire fin lassù e quando ci arrivo mi tratti così male, mi respingi. La montagna di cui tu parli è la montagna d'estate, non è la montagna d'inverno con la neve, con i turisti, con la gente che va a sciare. E c'è un motivo preciso che fai dire anche al papà di Pietro, perché loro amano così tanto la montagna in quella stagione? Beh, lui pensa che la natura dell'andare in montagna sia la fatica. E che quindi solo chi fa fatica e chi supera quella prova è degno di godere poi dei regali che la montagna fa, no? E quindi ce l'ha un po' con gli sciatori, perché salgono per la montagna senza far fatica, trainati da un cavo a motore, e anche perché il padre di Pietro è un po' una sociale e quindi ha dei problemi con le persone quando arrivano in gruppo. E un po' rispecchia alcune cose che sento io, nel senso che sento che lo sci di discesa è un turismo molto di massa, molto di consumo, molto invadente, poco rispettoso della montagna. Arriva sulla montagna e la trasforma, perché la spiana, la disbosca, la cementifica, eccetera. E non è proprio il mio modo preferito di andare in montagna, ecco. Sempre a proposito della montagna, a un certo punto fai dire al padre di Pietro che dice: perché sono andati a vivere in montagna, in queste zone così, insomma, apparentemente aspre, insomma, inospitali? E il padre risponde: beh, probabilmente perché a valle non si trovavano bene. Adesso lo dici naturalmente con altre parole. Anche tu hai la sensazione, questo bisogno di, come dire, non dico eremitaggio, ma almeno di solitudine, di raccoglimento interiore? Sì, c'è un senso, come dire, filosofico, artistico, personale nell'andare in montagna, che per me è appunto un bisogno di solitudine, silenzio, concentrazione, che mi servono alla scrittura e anche a stare bene. E c'è anche un senso politico, perché poi c'è una tradizione, come dire, anarchica, no? Dell'andare in montagna. Si va in montagna perché quello che c'è in pianura non ti piace, quello che c'è in pianura è la civiltà, è la società, sono le nostre città di pianura. Si va in montagna con il sogno, l'utopia forse irrealizzabile, di fondare una società nuova. E a un certo punto di questo romanzo questo sogno un po' c'è, e ovviamente non è destinato a un gran successo. Comunque sono molto legato a Thoreau, tutta questa idea di rifiuto della città e di ricerca di un luogo dove in qualche modo inventare una società nuova. Per me quella è la montagna. E la solitudine come la vivi? Perché i tuoi personaggi sono personaggi fondamentalmente che amano la solitudine, che la ricercano o che comunque arrivano ad apprezzarla. Io sono combattuto, un po' come loro. Ne sento il bisogno dopo un po' che sto con gli altri, che sto troppo in città. Eppure non sono mai riuscito a stare davvero bene nella solitudine, cioè a dire: ora sono giorni che sono quassù da solo e sono felice. Questo non è vero, io non l'ho mai provato e non so se ci riuscirò mai, ecco. È una dimensione di cui sento il bisogno, ma è una dimensione comunque difficile, in cui dopo un po' non riesco più a stare, ho bisogno di tornare giù, stare con gli altri. Questo è un romanzo, abbiamo detto, di formazione, perché c'è il rapporto fra Pietro e il padre, ma c'è anche un rapporto di amicizia bellissimo fra Pietro e Bruno, questo ragazzino, questo bambino come lui che incontra appunto in montagna, di estrazione completamente diversa dalla sua, perché è un bambino che nasce e rimane insomma su quelle montagne, porterà le mucche al pascolo e così via. Il loro rapporto di amicizia è profondo, ma nello stesso tempo anche fatto di grande pudore. È come se loro due si comprendessero fino in fondo, ma mantengono apparentemente alcune distanze. Perché? Perché hanno imparato a essere uomini in questo modo e ci provano a fare qualcosa di diverso. Nel senso che sono figli di padri che non hanno avuto amici. E di padri che non hanno mai imparato a raccontarsi, a esprimere le proprie emozioni, soprattutto le proprie sofferenze. E quindi loro da bambini hanno imparato a essere uomini così. Certo che stanno provando a fare una cosa nuova, nel senso che avere un amico così importante è qualcosa che i loro padri non avevano e che loro si stanno inventando. Però è un'amicizia che non passa per la parola, è un'amicizia di due persone che non è fondata sul fatto che loro si raccontino, domandino, rispondano, eccetera. Più fondata sul fare delle cose insieme e sullo stare vicini. C'è una profonda intimità fisica, per esempio, tra questi due, no? Non gli dà fastidio dormire insieme, Andare insieme in montagna, vivere certe emozioni, certe esperienze proprio condivise fino in fondo. Sì, ogni tanto mentre scrivevo mi sembrava di scrivere un amore, e cioè che ci fosse un'intimità più fisica che verbale e un'intesa più profonda di quella che passa per il razionale. Ecco, questo da lettrice ti dico che si avverte moltissimo, perché effettivamente non ci sono molte parole fra i due. Adesso, senza andare troppo nei dettagli della trama, a un certo punto ci sarà una telefonata da parte di Pietro, che in quel momento si trova in Nepal, perché non ci sono solo le montagne italiane ma anche le montagne di altri paesi, e lui dice: faccio per la prima volta una cosa che non ho mai fatto da quando sono qui, ho alzato il telefono, ho chiamato qualcuno e ha chiamato Bruno. Sembra quasi esserci anche un imbarazzo fra loro nel chiedere aiuto e offrire aiuto. Sì, c'è questa solitudine di fondo, per cui, e forse questa virilità un po' antiquata, per cui uno se la deve cavare da solo, no? Però è anche molto tenera, posso dire, perché si capisce che c'è un'intensità profonda fra i due. Sono contento che la trovi tenera. Perché pensavi che il lettore venisse un po', diciamo, spiazzato da questa forma di amicizia? Forse la lettrice. Avevo un po'... Io ho un rapporto ormai storico con le mie lettrici, perché ho sempre scritto di donne e ci tengo tanto a quello che pensano loro. E allora ogni tanto, mentre scrivevo di questa amicizia tra maschi che non si parlano, eccetera, pensavo: chissà cosa ne diranno le mie lettrici, se lo troveranno un libro che parla anche a loro o che è fatto solamente per maschi silenziosi come me. Ecco, Paolo Cognetti ha parlato spesso alle donne e di donne. Io ricordo appunto una su tutte, la raccolta di racconti, Sofia si veste sempre di nero. Tu hai sempre capito benissimo le varie sfumature della psicologia femminile. Perché ora, a questo punto della tua carriera, nel momento in cui decidi di fare il tuo primo vero romanzo, insomma gli altri erano appunto antologie, racconti, testimonianze, decidi di farlo con un personaggio maschile e di indagare questi due rapporti fondamentali, padre e amico? Era una storia che mi portavo dietro da tanto, direi da sempre, perché forse è la cosa più autobiografica che io abbia scritto, e a cui per tanto tempo non mi sono sentito pronto, nel senso non è che avessi in mente tutta la storia da anni, però c'erano elementi che mi rincorrono da tanto tempo, e in qualche modo li lasciavo lì e gli chiedevo di aspettare, anche di avere una scrittura e anche di avere un mondo in cui questa storia sarebbe stata ospitata, no? L'ho trovato quando sono andato a vivere in montagna, sono lì da un po' di anni, e allora piano piano, stando lì, mi è sembrato che questa storia che io mi portavo dietro, come dire, in sonno, ecco, trovasse il suo luogo giusto e trovasse anche la sua lingua dopo tanti anni che scrivo. Mi sembra di avere, in qualche modo, in tanti libri, di aver sperimentato per me che cosa significava raccontare, che cosa significava cercare la tua lingua, il tuo italiano, e qui sono arrivato forse a trovare qualcosa di decisivo per il mio percorso. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa, ma poi torneremo ad ascoltare l'intervista con Paolo Cognetti. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta Il cacciatore di libri. E riprendiamo ad ascoltare l'intervista realizzata con Paolo Cognetti, autore di Le otto montagne, pubblicato da Einaudi. Cognetti ci stava parlando di come ha lentamente trovato la scrittura giusta, la lingua, per questo romanzo. Questa è una scrittura, diciamo, molto asciutta, senza grandi fronzoli. Sappiamo che tu ami moltissimo la letteratura nordamericana. In questo gli scrittori anglosassoni ti hanno influenzato? Moltissimo, perché, ecco, alcuni scrittori anglosassoni, quelli della brevità, da Hemingway, sì, a Carver. E poi ci sono anche scrittori italiani, insomma. Per raccontare la montagna, a un certo punto mi sono reso conto che i miei scrittori americani non bastavano più. Allora, per raccontare la montagna, ho anche riscoperto certi scrittori italiani come Mario Rigoni Stern, il nostro più grande scrittore di montagna. Era proprio che mi servivano le parole. Non avevo le parole per descrivere certi posti, per dare forma a quel paesaggio, e l'ho cercato in questi scrittori. Infatti ci sono molte descrizioni di paesaggio in questo romanzo, di paesaggi intimi, personali, di emozioni, ma anche di paesaggi proprio geografici. Sempre proseguendo un po' nella storia, questo dettaglio forse possiamo anche svelarlo, nel senso che a un certo punto il padre di Pietro muore e lui trova un modo abbastanza curioso per recuperare il rapporto con lui, cioè ripercorre gli stessi sentieri di montagna in base alle mappe che il padre aveva utilizzato. E cerca, come dire, di provare a vivere la montagna, forse come l'aveva vissuta suo padre, con questa idea del raggiungere la cima, arrivare in vetta, raggiungere sempre un obiettivo. Questa appunto è una forma di recupero del rapporto con il padre che ormai non c'è più. Sì, mio padre aveva questa mappa della valle dove andavamo. Quindi anche questo è molto autobiografico. Quando ero bambino e usava un pennarello per sé, e quindi quando andava a fare un sentiero, una cima, ricalcava con questo pennarello tutto il percorso che aveva fatto, e lui era verde se non mi sbaglio. Io ero rosso e poi c'era mia sorella che era blu, e quindi questa mappa piano piano negli anni si è riempita di questi tre colori che lui usava per segnare tutti i posti in cui eravamo stati insieme o era stato da solo. Poi io ho smesso di andare in montagna con lui, come succede a Pietro, nella tarda adolescenza, in parte per una forma di ribellione, in parte perché insomma a una certa età non vai più con i tuoi genitori, te ne vai per il mondo finalmente, che bello, per conto tuo, no? Io ho recuperato il rapporto con la montagna dopo i 30 anni, ho avuto un periodo di crisi che per me è coinciso con una crisi del mio stare in città, e mi sono ricordato di questa montagna in cui non andavo più da tanto tempo, però avevo dei ricordi felici lì, ho pensato che forse potevo ritrovarli. Allora ho ritrovato per prima cosa questa vecchia mappa di mio padre, e allora mi è sembrato qualcosa che quando ero piccolo non vedevo, cioè che in quella mappa c'era una storia di tutti i nostri anni passati in montagna, e davvero sono tornato a rivedere tutti quei sentieri che mio padre aveva segnato, e in qualche modo sono risalito sulle sue tracce. Ma hai recuperato qualcosa in più secondo te di lui? Cioè sei riuscito a capire qualcosa in più rifacendo quegli stessi percorsi? In realtà l'ho superato, perché ne ho fatti molti più di lui e siccome lui è una persona molto competitiva, sono contento di aver fatto più montagne di mio padre. Vedete, le parole di Paolo Cognetti, come dire, vanno tutte prese e misurate con grande, grande attenzione. Questo libro veramente offre tantissimi spunti di riflessione. Abbiamo visto il rapporto padre-figlio, il rapporto con la natura, la montagna. A proposito, il perché si chiama Le otto montagne lo scoprite leggendo il libro, tanto non facciamo spoiler, ma non è niente di sensazionale, ecco. Però c'è anche in questo una visione del mondo. E allora forse dai, sveliamolo il perché. Perché a un certo punto c'è questo, diciamo, nepalese che dice a Pietro che secondo la loro tradizione si possono o girare le otto montagne, diciamo, principali, o salire la cima di una sola. Qual è il senso della vita? Qual è la cosa che bisognerebbe fare secondo te? La risposta non ce l'ho. Mi sono avvicinato a questa immagine perché dopo tanto amore per l'America, la letteratura americana, New York, negli ultimi anni mi sono invece sentito attratto più dall'Asia. E questa attrazione è passata per la montagna, perché 2 anni fa ho fatto questo viaggio in Nepal che poi ho un po' ridescritto nel libro. E ho avuto voglia di andare a vedere com'è l'Himalaya. Ho scoperto per esempio che c'è un pellegrinaggio molto famoso per i buddisti tibetani intorno al monte Kailash, e questo pellegrinaggio consiste nel fare un certo numero di volte il giro della montagna dalla base. Per loro è sacrilego arrivare in cima alla montagna, il modo giusto di andarci è girare intorno. E allora qui ho trovato proprio un'idea di Oriente e Occidente, no? Il nostro bisogno di conquista, questo bisogno anche molto maschile di arrivare in cima, anche una prospettiva diversa proprio. Sì, un'idea sia di conoscere la montagna, non percorrendola in verticale ma in orizzontale, che è l'idea non di conquistarla ma di conoscerla, e mi piaceva molto. È forse più femminile, direi. E quindi a un certo punto a Pietro si pone questa domanda, no? Avrà vissuto meglio chi fa il giro intorno alla montagna o chi ci sale in cima? Non c'è una risposta, però qui trova un po' il senso della sua amicizia con il suo amico Bruno. Che è un'amicizia bellissima, l'abbiamo detto prima, e che poi insomma è la vera protagonista di questo romanzo. Anzi, c'è un momento in cui, diciamo, Bruno finisce per avere rapporti più concreti con il padre di Pietro, e Pietro non dico che diventa geloso, però a un certo punto dice mi è dispiaciuto quasi non esserci stato in quei momenti. Quindi appunto non è gelosia di un amico, che cosa avrebbe voluto? È un rimpianto prima di tutto. Appunto, lui è stato un ragazzo timido, un figlio timido che ha seguito suo padre fino a quando non ha avuto le forze per ribellarsi, e a quel punto la ribellione non poteva che essere violenta, no? Un no, un pugno, io non ci vengo più, ciao, e questi due non si vedono più. Pensando che poi avrei sempre tempo per recuperare i rapporti che hai interrotto, e invece Pietro il tempo non ce l'ha, perché succede questa cosa in mezzo. E allora c'è un grande rimpianto di non aver conosciuto suo padre, e scopre che mentre lui non c'era, ecco, Bruno invece è andato avanti. è andato avanti, ha fatto un po' il figlio adottivo, ma soprattutto ha parlato con quest'uomo, ci è andato in montagna, ha raccolto le sue confidenze. Quindi è una gelosia, sì, ma è una gelosia dolce, nel senso che è come dire, da una parte mi dispiace non esserci stato, dall'altra parte sono anche contento che mio padre non sia rimasto solo tutti quegli anni, ma abbia trovato te al posto mio. Un'ultima domanda per Paolo Cognetti. Anche gli ascoltatori avranno capito che tu sei una persona, insomma, molto riservata, che tieni molto alla privacy. Abbiamo visto anche il tuo lato un po', abbiamo sentito anche un po' il tuo lato solitario di questo rapporto, magari anche conflittuale con la solitudine, ma che comunque fa parte della tua vita. E allora perché una persona come te, un uomo come te, decide a questo punto di scrivere un romanzo così intimo, dichiarando espressamente che è autobiografico, che prende proprio a mani basse dalla sua vita? Insomma, non hai avuto la sensazione di esserti messo un po' troppo a nudo? Eh sì, sarà questa specie di ambivalenza dei timidi, no? Tu stai chiuso in te stesso, non dici niente, non racconti mai niente di te, poi di colpo fai qualcosa di veramente impudico. Esci nudo per la strada, dopo essere rimasto chiuso in casa al buio per giorni e giorni. È una cosa del genere. Quindi questa è la sensazione che ti dà questo romanzo? È un po' sì, sì. Grazie Paolo Cognetti, ora in libreria con Le otto montagne, pubblicato da Einaudi. Un romanzo, come vi ho detto, molto intimo, profondo, che ha a che fare con la montagna, ma che soprattutto ha a che fare con il rapporto di amicizia, in questo caso fra due uomini, e con il rapporto fra un padre e un figlio. Grazie Paolo. Grazie a te, ciao. E Paolo Cognetti è uno dei 300 scrittori ospiti della manifestazione Libri Come, festa del libro e della lettura a Roma il prossimo fine settimana, dal 16 al 19 marzo. Il tema di questa edizione è confini. Ci saranno scrittori stranieri come Ian McEwan, Emmanuel Carrera, Carlos Ruiz Zafón, Eshkol Nevo. Fra gli italiani, oltre a Cognetti già citato, Francesco Piccolo, Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli, Elena Stancanelli, Nicola La Gioia e tanti altri. Libri Come si svolge all'Auditorium a Parco della Musica di Roma. Per i dettagli sul programma, dunque, basta visitare il sito auditorium.com. Ed è tutto anche per oggi. Grazie in regia Valeria Bernardi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.